Benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 in FM oppure potete ascoltarci in streaming sul sito www.ondarossa.info. Se invece volete telefonarci potete farlo allo 06 49 17 50. Non potevamo non arrivare a questo punto e non potevamo non farvi ascoltare la colonna sonora di Natural Born Killers, film del 1994 diretto da Oliver Stone, che narra la storia di Mickey e Mallory, Woody Harrelson e Juliette Lewis, che sono due giovani serial killer senza scrupoli che senza una vera e propria ragione seminano panico e morte. Imprigionati dopo il 54esimo omicidio, diventano divi della televisione e riusciranno a fuggire. Crazy, sleepy, Comanche, lies beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully, I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him, he's just absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim, in heart, I am an American. Abbiamo ascoltato Rock and Roll Nigger della mitica Patti Smith, altrimenti detta dagli italiani Patti Smith. La sceneggiatura originaria del film venne scritta da Quentin Tarantino e venduta per $400,000 al produttore Murphy. Venne modificata radicalmente da Oliver Stone e Richard Lutowski e David Veloz, al punto che Tarantino decise di prenderne le distanze pubblicamente e chiese addirittura di togliere il suo nome dai titoli. Che ne pensate, amiche e mamme? Sono eccitante, eccitante, super eccitante. Io adoro amiche e Marlon, sono così giusti, fantastici. Nicky e Mal, beh, sono la cosa migliore dopo Charles Spencer. Per me sono anche meglio. Sono tra le grandi figure degli Stati Uniti, Elvis, Jack Kerouac, James Dean. Sì. Merci per cul. Nicky, sei l'uomo. Jim Morrison, Jack Nicholson. Aggiungici un bel po' di polvere da sparo e otterrai Mickey e Mal. Non dico che credo nell'omicidio di massa, non fraintendo. Ma certo, ho sbagliato. Noi rispettiamo la vita umana, ma se fossi un assassino io vorrei essere come loro due. Should I go for it? Questa era Fork Boy dei Lard, una puntata bella adrenalina che ha quest'oggi su Tracce di Cinema. Natural Born Killers. Se non vi piacciono queste sonorità, è meglio che vi andate a fare una passeggiata oggi. Perché continueremo così. È una bella colonna sonora, c'è un po' di tutto. Inizia e finisce con Leonard Cohen. Ci sono, abbiamo ascoltato Patti Smith, i Nine Inch Nails, Dr. Dre e anche Bob Dylan e altri. Questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è dei Lard, che è un gruppo parallelo dei Dead Kennedys. Il cantante è Yellow Biafra o Jello Biafra, adesso non lo so, non mi viene. Io invece volevo raccontarvi che i protagonisti del film si ispirano a Charles Starkweather e Carol Fugate, una giovane coppia del Nebraska che nel 1958 compì una serie di efferati omicidi nello stato del Nebraska e nel Wyoming. Starkweather, dopo aver ucciso la madre, il patrigno e la sorellina di appena 2 anni della Fugate, e dopo aver intrapreso una lunga fuga in macchina durante la quale compì altri 7 omicidi, fu condannato a morte e giustiziato tramite sedia elettrica a soli 20 anni. Carol Fugate, che all'epoca dei fatti aveva appena 14 anni, fu prima condannata all'ergastolo e poi a soli 17 anni, dal momento che la sua partecipazione agli omicidi non fu mai provata con certezza, fu nuovamente condannata. Anche i personaggi del film di Terence Malick, il Malick, la rabbia giovane, con Martin Sheen e Sissy Spacek, si basano sulle vicende di Starkweather e della Fugate. The world's coming to an end, man. Angels, Mickey. They're coming down for us from heaven. And I see you riding a big red horse. You're driving the horses, whipping them. And they're spitting and frothing all on them out. And they're coming right at us. And I see the future. There's no death. Because you and I were angels. I love you, man. I know you do, baby. I've loved you since the day we met. Anyone has ever hit a heart, wouldn't turn around and break it. And anyone has ever played a part, wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane, E abbiamo ascoltato Sweet Jane dei Cowboy, la versione dei Cowboy Junkies, perché la versione originale ovviamente la conosciamo tutti, è quella di dei Velvet Underground. Chi sono i Cowboy Junkies? È un gruppo rock canadese formatosi a Toronto nell'85, composto da tre fratelli e sorelle e della famiglia dei Timmins: Margo alla voce, Michael alla musica, ai testi e alla chitarra, e Peter alla batteria. Oltre ai tre fratelli c'è anche il bassista Alan Anton. Secondo Lou Reed questa è la sua cover preferita, devo dire è molto dolce. E Tarantino non accettò mai lo stravolgimento apportato al suo script e non riuscì a nascondere il risentimento nei confronti di Oliver Stone e soprattutto del produttore Don Murphy. La tensione tra il regista e Murphy culminò nel 1997, quando i due, incontrandosi per caso in un ristorante, arrivarono alle mani dopo un breve scambio di opinioni. Durante la rista, Tarantino spinse il produttore contro un muro e lo colpì ripetutamente al volto e al capo. Tale scatto d'ira costò al regista una denuncia con richiesta di 5 milioni di dollari e come risarcimento danni, poiché Murphy si lamentò di non essere riuscito a lavorare per via del dolore per circa un mese. Abbiamo ascoltato la colonna sonora di Natural Born Killer, Ghost Town, del gruppo ska inglese The Special, originariamente si chiamava The Special H. Il brano è un single dell'81. Gli ska, cioè gli Special H, è una band ska britannica degli anni 70 e hanno fatto molti singoli dal 79 all'81, poi hanno deciso di sciogliersi e poi sono ritornati insieme nel 98. Sono caratterizzati da testi multirazziali e antirazzisti e loro si dedicano molto alla politica, al multiculturalismo. La loro musica ha elementi sia bianchi britannici come il punk e ovviamente neri afroamericani, il reggae, il soul, l'R&B e lo ska. Hanno avuto fama quando Joe Strummer, ovviamente il leader dei Clash, gli ha dato l'occasione di aprire le esibizioni del vivo dei Clash durante l'On Parole Tour in UK. Stone disse che questo film era il mezzo migliore per spiegare che viviamo in un'epoca in cui i media rincorrono la violenza, per cui ogni delitto che si commette dovremmo farci una sorta di esame di coscienza e chiedere quanto non ne siamo parzialmente responsabili anche noi come soggetti e come società. E mica ci aveva tutti i torti, eh? Vari episodi di cronaca nera sono legati al film, tra questi quello che riguarda un amico dello scrittore John Grisham che viene ucciso da un assassino che diceva di essersi ispirato al film di Oliver Stone. Per questo John Grisham intentò una causa contro il regista. Quando due anni dopo la Warner Bros. Cercava un attore per la trasposizione cinematografica di Il momento di uccidere, sempre di Grisham, venne proposto Woody Harrelson. Dato che Harrelson aveva recitato in Assassinati, lo scrittore che era incaricato di selezionare il cast del film rifiutò l'offerta. You wanna touch me? Thank you. don't be so fucking eager. E abbiamo ascoltato Sex is Violent dei Jane's Addiction, ma in realtà è un brano composto da Trent Reznor, che ha curato la colonna sonora di questo film, cioè Natural Born Killers. E chi è Trent Reznor? È il cantante dei Nine Inch Nails, che ha messo insieme per questo brano tre pezzi diversi, cioè Sex is Violent di Jane's Addiction, e ma anche Ted Just Admitted di Diamanda Galas, la bravissima Diamanda Galas, e anche I Put a Spell on You. I Jane's Addiction sono in larga parte Perry Farrell, che fondò il complesso dopo, insomma, una gioventù abbastanza incasinata. Nasce a New York nel 1959 e sceglie questo nome, Jane's Addiction, per insomma ricordare una sua compagna di appartamento eroinomane. Il suo invece nome d'arte viene scelto per avvicinando la parola peripheral, cioè periferico, e vuole sottolineare la sua passione per le situazioni marginali, bassi fondi e i loro personaggi. Il suo motto, che proclamerà quando ormai sarà divenuto una rock star, è: ci vuole una visione periferica, perché solo così si può vedere il centro. I Jane's Addiction pubblicano diversi album, e il loro disco più importante è Nothing Shocking, che appunto viene inciso nel 1988 ed è considerato uno dei capolavori degli anni 80 e uno dei dischi culto dell'hard rock. Altri loro album importanti sono Ritual dello Habitual, e poi insomma hanno avuto una presenza importante all'interno della scena rock di quegli anni, perché hanno creato il festival Lollapalooza nel 1991, un festival rock itinerante e uno dei simboli del rock degli anni 90. Per il Lollapalooza sono, solo per fare qualche nome, passano i Sonic Youth, Boat Hall Surf, Sue Weeks and the Bushes, Red Hot Chili Peppers, Cypress Hill, Smashing Pumpkins, Beastie Boys, Soundgarden, Tool e naturalmente Jane's Addiction. Durante il periodo appunto del Lollapalooza, Farrell assieme a Perkins dà parallelamente vita al progetto musicale Forno por Pyros. Oh, questo brano dei Jane's Addiction ci introduce all'ospite di questa settimana, che è Daniela Catelli, una delle voci storiche di Visionari, critica cinematografica e specializzata nell'horror, giusto Daniela? Sì, anche se ormai l'horror è un po' in decadenza, per cui l'abbiamo un po' lasciato alle serie TV più che al cinema, comunque sì. Ben ritrovata, come va? Grazie. Bene, ascoltavo con molto interesse questa interessante disquisizione sui Jane's Addiction. Proprio parlando di visione periferica, mi è venuto in mente, stiamo parlando di Natural Born Killers, che è un film che più che una visione periferica richiede una visione a 360 gradi, accelerata, rallentata. È uno dei film più straordinari, secondo me, degli anni 90, proprio sperimentale, ancora insuperato. Sì, perché tra l'altro, Daniela, ci sono molti, ho trovato dei punti di contatto con il cinema di Tarantino, ma ci sono veramente una serie di linguaggi cinematografici accostati che fanno un mix incredibile. Sì, assolutamente, quello poi è tutta farina del sacco di Oliver Stone, la sceneggiatura di Tarantino è stata in parte riscritta, perché in realtà non parlava solo di una coppia di sposi che poi appunto diventava, insomma, serial killer, però lui ha messo tutta la parte dei media, tutto appunto questo linguaggio, questa parodia della televisione, dalla soap opera, tutto questo tipo di linguaggio mediatico, no? Un film costruito con altre lingue, altri linguaggi e altre visioni. È un film veramente straordinario, sia per il periodo in cui è stato fatto, che era il 94, e sia per il coraggio, la violenza, la critica della violenza, ma che diventa anche un assalto allo spettatore. Guarda, è uno dei film, tra l'altro, che è anche difficile rivedere. Io l'ho amato moltissimo, all'epoca Roger Ebert, non tutti lo amarono. Roger Ebert disse: va visto due volte, la prima volta per farsi prendere proprio visceralmente, la seconda per il significato. In realtà io l'ho vissuto come un unico, per cui rivederlo, la parte viscerale, devo dire, è ancora molto molto molto forte ora. Quindi Oliver Stone è sempre stato avanti in queste cose. Sì, che poi nel suo percorso cinematografico, a partire dagli inizi, insomma, da quei film che lo fecero conoscere già negli anni 80 in Italia, rappresenta quasi un unicum, ma comunque ha avuto tutto uno sviluppo cinematografico che lo ha portato su diversi fronti, esatto, stilisticamente. Sì. Considera che questo film venne dopo Tra cielo e terra, che era, sì, un bellissimo film, ma anche molto, molto personale, anche pacifico, tra virgolette, sulla sua esperienza in Vietnam. Era un po' il contrastare di Platoon. Sì. E lui, quando si, insomma, dopo questo film, che gli costò moltissimo e che non ebbe neanche poi tanto successo, usciva dal suo secondo divorzio, e National Ball Killers, diciamo, è uno di quei film, secondo me, più personali, in cui lui esprime anche un momento particolare della sua vita, la rabbia e il dolore che provava in quel momento lì. Un altro film del genere, però molto più leggero e secondo me altrettanto straordinario, è U-Turn, che è bellissimo, sì, insomma, sì, e che è considerato un film minore. Diciamo che sono le due anime di Oliver Stone: una è quella appunto anche impegnata, politica, l'autore di documentari straordinari, secondo me tuttora, documentari su Fidel Castro, credo che siano tra le cose più belle che uno può vedere al cinema, per cercare di capire gli altri, no? Quelli, sì, insomma, al di là del pregiudizio, al di là appunto. E poi appunto c'ha questo lato selvaggio, cioè Oliver Stone, cioè, non dimentichiamo che all'inizio della sua carriera ha tra l'altro firmato un horror bellissimo, Seizure, completamente fuori di testa, psichedelico, come in parte anche questo National Ball Killers. Beh, lui è uno che, insomma, l'ha detto, l'ha raccontato, insomma, si è fatto di tutto, no? Dall'LSD, è uno che ha esperienza di droghe e di stati alterati di coscienza. E io l'ho incontrato 3 volte, devo dire, ho avuto questa fortuna di parlarci, ogni volta è un'emozione, è un uomo di un'intelligenza, di una putezza, è veramente una persona straordinaria. E io ho sempre detto che è meglio un brutto film di Oliver Stone che un bel film di tanti di questi tanto considerati, che insomma vanno per la maggiore, ma che non ti danno le stesse emozioni. Secondo me, se National Ball Killers funziona così tanto ancora ora, è perché lui veramente ci mette la passione, ci mette il cuore, ci mette l'anima, ci mette le viscere, sì, che possono, sì, essere, sì, anche sgradevoli. Non è un cinema per tutti, però non ti lascia indifferente. Secondo me questa è una dote che un cineasta deve avere, non, sì, ti deve mai lasciare indifferente. Sì, sì, sì. Senti Daniela, ecco, nel suo percorso, secondo te quali sono i punti più qualificanti nello stile cinematografico, ma anche nelle cose che racconta? Ma guarda, tra i suoi film appunto più estremi, appunto questi due che ho citato, sì, sì, tra i film un po' più classici io trovo tuttora straordinario JFK. Secondo me è proprio un film che uno che si vuole avvicinare anche al cinema di Stone, anche Salvador, che è più politico, è uno dei suoi primi film, il secondo se non sbaglio, no, il terzo dopo La mano, che era un altro horror da brutto, però e Salvador pure era un film molto, molto affascinante. Però JFK è proprio il puzzle che lui ha nella mente, la sua visione dell'America, un complottismo che non è il complottismo di bassa lega a cui assistiamo oggi, no? Però è la ricerca di una verità, di una realtà dietro alla verità ufficiale. Oltretutto lui ha firmato una serie di documentari splendido che si chiama The Untold Story of the United States, cioè dove offre nuovi punti di vista su episodi appunto della storia americana, dalla prima guerra, dalla seconda guerra mondiale, insomma, e poi. Quindi JFK secondo me è proprio uno dei suoi film più belli, oltretutto anche lì c'è un montaggio straordinario, non come bello, vabbè, è un altro discorso narrativamente, ma appunto una cosa per esempio che volevo sottolineare, che National Ball Killers ha 3000 stacchi di montaggio, una cosa pazzesca, proprio un lavoro proprio. Quindi lui infatti il film è stato girato in 56 giorni e, esatto, il montaggio è durato 11 mesi. Esatto, poi il lavoro è venuto dopo, cioè già avere in testa questa visione, questo stile, questo modo di esprimere quello che vuoi, e poi secondo me viene fuori benissimo, no? Dal film alla storia, questi attori che lui sceglie, no? Spesso appunto non sono neanche all'epoca, non è che insomma Juliette Lewis stesse in un periodo di massima gloria, però lui sa veramente anche come non solo dirigerli gli attori, ma li prende e li utilizza in maniera straordinaria proprio per quello che ha in mente. E poi appunto io amo meno Platoon, anche se sono un film più personale, quindi andrei a rivedere Salvador, e come dicevo prima i suoi documentari, i suoi ultimi, anche il documentario su Arafat, documentario sui leader comunisti dell'America Latina, cioè io ho visto tre cose che in televisione non vedi. E poi Oliver Stone è stato, insomma, anche, cioè, le sceneggiature di Oliver Stone sono, insomma, molto molto belle tutte quante. Non ci dimentichiamo che lui scrisse la sceneggiatura di Scarface e di Fuga di mezzanotte, se non sbaglio, esatto. Dove già si vede il suo approccio carnale viscerale al cinema. Pure Fuga di mezzanotte e Scarface sono due film violenti, ma di una violenza che scrive benissimo, no? La realtà, primo la realtà, appunto, questa storia di questo incarcerato, appunto, in Turchia per possesso di droga, il secondo proprio dell'America di quel periodo. Sono due film straordinari secondo me. Io credo che Oliver Stone, cioè, è un regista riconosciuto, ma che in parte sia ancora sottovalutato. Ho questa impressione, o che sia stato spesso frainteso. Io anche su Wall Street, no? Che è un film che c'ha, è datato, rivisto oggi è datato, non il secondo, il primo proprio. Però c'è, cioè, uno che è stato sempre avanti, no? Cioè anche un visionario a modo suo, è uno che riesce a interpretare la realtà, a buttarsi avanti, per quello che National Ball Killers è un film tutt'oggi moderno. Se uno lo vede ora non pensa che è stato fatto più di 20 anni fa, no? Sì. Senti Daniela, noi ogni puntata, ogni ospite chiediamo un film la cui colonna sonora ti piacerebbe riascoltare in una puntata. Che dici? Ah. Guarda, sceglierei perché amo molto lei, perché amo molto anche il lavoro che fa lui sulle colonne sonore, Paul Thomas Anderson, che è un altro dei miei registi preferiti, sì. E direi Magnolia. L'ho amata moltissimo, Iron Man, trovo che sia straordinaria, anche se mi piacciono anche più le colonne sonore come questa, Trent Reznor, tutte le colonne sonore dei film di Fincher sono meravigliose. Bene. Ma anche, uno, se ne devo dire una, se no mi è venuta in mente adesso, quella di Tom York per The Master, sempre Paul Thomas Anderson, meravigliosa. Molto quindi, bene. Insomma, vedete voi. Vediamo. Noi segniamo. Ok, Daniela, è stato un piacere, ti ringrazio. Un abbraccio e a presto. Ok, grazie mille a voi. Ciao. Ciao. Sì, ti ringrazio. Allora, Mickey, mi dica come può guardare qualcuno, un qualsiasi padre di famiglia, e decidere di ucciderlo come un cane? Come fa a decidere di ammazzare un innocente? Un innocente? Chi è innocente, Wayne? Tu lo sai? Innocente? Ah sì che lo sono. Di omicidio lo sono certamente. E poi che è un omicidio, amico? Tutte le creature di Dio uccidono in un modo o nell'altro. Guarda le grandi foreste. Lì hai specie che uccidono altre specie. La nostra invece le uccide tutte allegramente, foreste comprese. Solo che la chiamiamo industria, non omicidio. E comunque conosco un sacco di gente che merita di morire. Perché meritano di morire? Beh, penso che tutti hanno qualcosa nel passato, qualche segreto, un orrendo peccato tenuto nascosto. Un sacco di gente là fuori è già morta e non lo sa, e ha bisogno di essere liberata. E a questo punto arrivo io, il messaggero del destino. Se un giorno un chicco di grano cade nel terreno e muore, non è poi così grave, ma forse morendo lui porterà con sé molti frutti. E cos'è questa, mi scusi, la teoria per cui ognuno di noi è un assassino potenziale, intende questo? Un lupo non sa perché è un lupo, un alce non sa perché è un alce, Dio li ha fatti così e basta. Sai che significa realizzarsi, Wayne? Cioè, quando sai che tutto ciò è solo un'illusione. Il gran coniglio dice che il momento in cui ti realizzi, l'attimo della realizzazione, vale più di 1000 preghiere. Tu sei pazzo, amico. Non credo di essere più pazzo di te, sai. Io sono per gli estremi, buio e luce. Sai di che parlo? E io sono la luce. Con Mal. Mal. Hey, yo, it's your turn. fucking radical one track started as a sketch in my notebook. And now don't cross my books, take another look. My thoughts are here and you'll begin to fear. Fear that your car will get pulled, lift you into fear. Fear with the thoughts from a militant, militant mind. Hardline, hardline after hardline. Ammo's in power holds all my people, make tough turns. Just beat the streets by at night and then watch them burn. Abbiamo ascoltato Bump Track dei Rage Against the Machine, pezzo non nella colonna sonora di Natural Born Killers, che è il film del quale stiamo della puntata di oggi, ma è comunque presente nel film. I Rage Against the Machine sono stati un gruppo musicale rap metal statunitense che si forma a Los Angeles nel 91 da Tom Morello e Zack Della Roca. Sono stati uno dei maggiori fenomeni rock degli anni 90 e uno dei maggiori nomi del panorama crossover. Registrano il loro primo demo senza mai essersi esibiti dal vivo e innescano il passaparola passando il demo ai loro amici e solo in seguito vendendolo ai loro primissimi concerti, e raggiungono in pochissimo tempo le 5.000 copie vendute. Il primo album è Rage Against the Machine ed è del 92 ed è un omaggio a Jimmy Page e al rap dei Public Enemy. Contiene diversi brani, tra cui Killing in the Name, che è la canzone simbolo del gruppo, con un testo semplicemente e implicitamente rivoluzionario nel vero senso del termine. La censura perseguita la presunta pericolosità dopo questo album del gruppo, perché considerato sovversivo, è stato The Night Live che li ospita, censura la loro performance perché avevano disposto sul palco una bandiera americana rivolta al contrario. Al Philadelphia, durante il Lollapalooza, salgono sul palco completamente nudi in segno di protesta contro la fondazione dell'etichetta Parental Advisors Explicit Lyrics, e per 14 lunghissimi minuti restano in piedi suonando la chitarra completamente nudi. Nel 96 giunge il seguito di Rage Against the Machine, prodotto da Brendan O'Brien, si chiama Evil Empire, l'impero del male, da una citazione dell'82 del presidente Ronald Reagan, che così definiva al termine della guerra fredda l'Unione Sovietica. The Battle of Los Angeles del 99 è l'ultimo album di inediti che ha un grandissimo successo, e poi nel 2005 il gruppo si scioglie. C'è il tempo per l'edizione di Renegades, un album di cover in cui ci sono nomi importantissimi, illustri come Bob Dylan, The Stooges, Africa Bambaataa, Cypress Hill, che vengono omaggiati nelle 12 canzoni corrette e personalizzate secondo l'inconfutibile stile Rage Against the Machine. I'm gonna say this and I'm gonna end mine. If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffer in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass. Break them off, break them off, son. Break them off, son. Break them off, son. Break them off, son. Break them off, son. Break them off, son. Break them off, son. Break them off, son. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. But living in the city, it's do or die. I got my finger on the trigger, so idiots who want to die. Then when the women belly them don't really understand. The reason why they take me long and me on hand. Me not our peace and me not Rodney King. Me gun goes click, me gun goes bang. Them riot in Compton and them riot in Long Beach. Them riot in the Lakers, them don't really wanna see. Niggas start to loot and police start to shoot. Like a thunder, 7 o'clock, barricade us like Beirut. Me don't show no love cause it's us against them. Them never ever love me cause it's forced to rebel. And kill at my own risk if I may. Delay to spray with my AK and put him to rest. Yes, we have, there have been riots, rioting, well I don't want to say rioting, but there's been looting downtown. But right now, Bree, what I want to show you is they have started fires down at the end of the street. How many niggas are ready to loot? Yeah, so what you wanna do? What you wanna do? I said, how many niggas are ready to loot? I'm myself a boozy and my brother a nine. That's what they told us today. In other words, you still a slave. No matter how much money you got, you still ain't shit. Sitting in my living room, calm and collective. Feeling that gotta get my perspective. Cause what I just heard broke me in half. And half the niggas I know, plus the niggas on the road spelling. Laugh now, but cry much later. You see, when niggas get together, they get mad cause they can't fade us. Like my niggas from South Central Los Angeles. They found that they couldn't handle us. Bloods, Crips on the same squad. With the SA tough, nigga, it's time to rob and mob and break the white men off something lovely. I don't love them so them can't love me. Yo, straight putting it down, getting my scoot on. It's jumping off in Compton so I got to get my loot on. And come up on me some furniture up. Got a VCR in the back of my car that I gank from the sloths and swap me. And motherfuckers better not try to stop me, cause they will see that I can't be stopped. Cause I'ma cock my Glock and pop till they all drop. Yes, in videotape we see some of the people in the back things at the officer. And swinging at them as well, as there was a young woman there who took a swing at an officer with some object in her hand. How many niggas are ready to lose? Yeah, so what you wanna do? What you wanna do? I said, how many niggas are ready to lose? Got myself a Uzi and my brother a nine. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. One time trigger happy, no nigga love. 187 time to grab the glove. Can't get prints on a nine, I throw away. Or get prints on my Uzi when it's played. Pop, pop, pop, another motherfucker drop. And I get relief like pop, pop, fizz, smash. I crash his head like a window. I get Nintendo, I'm high off the endo. Creeping with the quickness to the cut. Bust one to his head while he munches on a donut. And crack up, so now we best to back up. I guess I got to back up, filling the clip up. I dip up town, but motherfucking cops are all around. Helicopters flying, these motherfuckers trying to catch me and stretch me on death row. But hell no, the whole block refused to go. This now covers a very, very wide area of Los Angeles where these fires have been ignited. I mean, from here to the south end of South Central is a long way. This is destruction, so them all four. Niggas don't give a fuck, so them bust them before. The construction of three black shows, no justice. So they convince it right, if we write it again. Me, turn the other cheek, me, beat too many feet. Got me nine to my side, so me bust, flip. Cause he don't give a fuck and me don't give a fuck. And all my problems is with that fuck, fuck. Black blam, blam to them four. Listen to the shots from my nigga Dougie Chuck. Dr. Dre, them boss gunshots. Digging it as an RBX, them boss gunshots. Come again. Questo brano che abbiamo ascoltato si chiama The Day the Niggas Took Over di Dr. Dre, altrimenti detto Dr. Dre. Questo brano accompagna la scena del film Natural Born Killers, quando Wayne Gale, il giornalista, viene scortato all'interno del carcere di massima sicurezza. Il brano in questione fa parte di un album di Dr. Dre che si chiama The Chronic, considerato uno dei migliori album della storia hip hop. Nel pezzo si racconta dei primi anni 90 per niente facili per gli afroamericani di Los Angeles. Le rivolte di Los Angeles nel 1992 sono tristemente passate alla storia. Dre, Daz e Snoop Dogg, che cantano nel pezzo, raccontano la rivolta secondo il loro punto di vista, visto che hanno vissuto quei giorni in prima persona. siamo arrivati alla fine. Io vi do le coordinate per sostenere Radio Onda Rossa, la voce della comunicazione, dell'informazione, della musica e della cultura antagonista. Non vive di aria e può continuare a trasmettere se voi, i vostri contributi arrivano al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Oh, con cosa ci salutiamo, David? Prima ascoltiamo un breve pezzo di Nusrat Lefikan e poi il brano che conclude il film, cioè The Future di Leonard Cohen. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. cut, cut, cut, cut, cut, cut.